K. Com'è che mi ascolta? K. Ti sento più al telefono che al baracchino. Cosa? Ti sento troppo più al telefono che al baracchino. Anzi, spegni il telefono, se no sento male, sento l'innesco. Adesso. Ciao Ciccio. Eia, spegni il telefono però. Gianni. Antonino. Ecco, adesso ti sto bene. Oh, guarda quello che sta. Adesso non è molto amplificata. E così guarda, 1, 2, 3, stai aumentando, ma al massimo sì, no? Al massimo sono così, guarda. Cazzo, sogna radio. È forte, eh? Però vedi che adesso regola il coso. Eia, adesso è buono, che. Regola, però... un mio travaglio gli ha fatto. Un travaglio grosso, Me lo posso immaginare, io non mi sono fidato, tu pensa allora, per quello porta batterie, piano piano li ho messo in alto perché non mi sono fidato a disaldare troppa roba piccolina, stavo ancora controllando. Ma quanto si appena? Cosa? Che lui già si appenta. Lo so, ho visto. Qua mi ha messo in finale di quell'altro apparato, come c'è tu, che hai messo le luci blu, però ripeto, niente, ce ne voleva un'altra ancora a finale, capito, che non l'abbiamo trovato. Ha messo internet, non si trova. E non mi ricordo la sigla, mi pare che sia cancellata in chat. Cioè. Un casino. A meno che bisogna guardare il tuo che sigla c'ha e poi ordinato, ho capito. Infatti agito mi sa meglio, dove fa qua tu arrangiati. Infatti lo volevo offrire un po' di roba per la sessione. Stamattina mi stava dicendo che gli interessa un apparecchio per il camper, boh. Lo so, maestro, un apparecchino per il camper, me l'ha detto anche a me. Campagato. E io... Vabbè, non dico niente di frequenza, ecco, se si raccontano. Lo dico un altro momento, un altro telefono. Cara. Vabbè, comunque adesso sta andando bene, confermi. K al 100%, bella amplificata, bella chiara e forte. E allora su qui, ascolta, io adesso abbasso bel mic, guarda, così, regola. Adesso è abbassato, sempre bella chiara e ottima. Così va bene. K così sì, perfetto, non è molto amplificata che si sente anche la mosca. Adesso aspettiamo ancora una serie dell'altro. Comunque lascialo così, stanno bene, dai. Sì, infatti lo lascio così, non lo tocco. E io sono arrivato qua tardi, quindi mi sono cucinato, ho preso alla Conad, ho preso il salsiccione, me l'ho fatto sulla piastra e ho già mangiato a riprendere, e vabbè. No, io sono arrivato all'1:15, mi sono fatto la spesa, sono andato a fare un po' di spesa, ma stasera devo uscire, devo andare al centro camera a comprare un po' di roba, la salsiccia, altra roba che mi manca. Mi sono fatto il merluzzo alla pizzaiola, un po' di insalata e tiragampagna. Io sono il salsiccione pieno, tra rimane l'ultima carezza e poi basta. No, io roba pesante, no, giù. Troppo abbiamo mangiato ieri. Io guarda, tu non ci chiedi, ieri mi sono bevuto un bicchiere di latte. E mi sono confuso. No, io ieri notte cosa ho mangiato? No, non mi sono fatto buttare arrosto col ketchup. No, io niente, no, proprio. Era ancora pieno il bicchiere di notte, quindi ho potuto bicchiere di latte così e basta. Basta, troppo ho mangiato, dai, ti stai sotto gioco te, c'è troppo mangiato, infatti. Manco la vera, manco la lancia, non sta. Vabbè, adesso succede. Cioè, una volta in casa si può fare, ma non sempre, se no di biera. Vabbè. Niente, quindi, sto pensando a cosa darli, Io già ho capito. Cioè? Quello che li vuoi dare. E cioè, non mica quello che tu hai fatto a me, no? Ah, no. Ma stai scherzando? No, quello è bello. Ma manco può essere muore con me, te lo dico io, è troppo bello. La capizzina, chi ti fu farsa? Chiappa e chiappa. Quello è bello, Quello è molto bello. È che io stavo facendo una stagione diversa. Ho portato fuori perché già hai visto cosa c'ho. C'è tutto quanto... sul ristretto. No, io ripeto, va bene così, se metto un'altra parata ancora, più in là, mi va bene. Metto il pannello qua, corso e faccio tutte le cose che voglio fare. Capito? Voglio modificare più altro quanto sono un po' più qua. Io. No, qua l'ho studiata bene, vai, abbassare quello lì, così tutti i microfoni stanno bene tranquilli. Sì, niente, lui ci interessa, non interessa. Hai messo a tutti, non interessa. Ecco, ecco. Il Baufei ce l'ha. Il Baufei? È PMR, io ho quello come c'era lui. È più importante. Noia. Cade così, non te l'hai fatto. Guarda, ho finito adesso, ho fatto il mio senso di baracchia, adesso anche la gente, vedete come è sistemato, è a casa sua. Sì, sistemato, diciamo che era polvere che c'era all'interno, ma devi vedere, ha sganciato dei gancetti che ci sono, ha smontato cose, come si chiama, il potenziometro, dentro c'era polvere, l'abbiamo soffiata con l'aria, messo la strada per contatto, tutto quanto, poi l'ha asciugato bene e poi l'abbiamo chiuso. E tu pensa che quello che me l'ha dato non faccio nulla, c'è tra voi, se non sbaglio. Era fatto in chimica, in mezzo alla calopa e c'era da poco da preso, cazzo. Cado nei gruppi, li cosi tu. E allora, non si capisce nulla, guarda. Vabbè. Allora, qua per cercarmi un qualcosa che gli piace, minimo ci devo stare un mese a seccare, che me ne sono truppi. Ne ha molti i microfoni. Ne ha molti questi microfoni qua. Ma comunque, adesso anch'io mi riposo un pochettino, guarda, mi appoggio perché sto male con la schiena. Intanto mi chiamo dottor Borsellino, io sono così. E io dico, a me mi fate troppo male, voi. Ma è inutile che a me mi fa fare un'altra risonanza, che poi se mi fa partire a ribollare me ne fa fare un'altra, buonanotte. No, ci metto quella che fai, metto la risonanza che hai fatto, non c'è bisogno di farne un'altra. Tu la controlla quella che hai fatto, da lì se rende conto. Ma se io ce l'avevo già fatta la risonanza, l'ho portata, l'ha guardata, quanta ribollare me ne ha fatto un'altra. Poi sono come fare a far spendere di scusa. Poi da stesso il tampone, e ho detto guarda che ce l'ho qua, c'è il secondo tampone, 4 giorni fa l'ho fatto, è vecchio, vuole nuovo, avanti, ma lo torna. Ma quindi si è tamponato? Ci hanno tamponato tutto, anche il culetto, qua. Vai. Sì, grazie, viene bene a ridere, ma anche a Manuele, a solo i micruzzi, il tamponacuo ce l'ho fatto. No, ci credo. Sì, tanto è vero che non so, a Manuele poi dopo una mezz'ora è finita la bottiglia, ogni tre mesi ho messo a questo liquido e sono andata tutta. E per la sera, che capita? Sì, la sua facuccia a Manuele. Vuol dire che c'aveva le vie troppe uniati che erano ritardate. Per quello lo fa. Poi deve essere. E poi domani andiamo a fare la seconda. Vabbè. Sì, io guardo, ho detto, ma almeno non dire nessuno perché ci prende troppo di culo. Tutto a fare, questo è un buco. E quando va a fare la visita per la prostata, lo stesso. Dai tu, non io con la vita non l'ho mai fatta. Mi ha detto che sei tra l'udito dentro, ecco. Sì, io l'ho fatta, ma non sapevo la situazione, se non l'avrei mai fatta. Mia moglie non sapevo, ma non ha detto nulla, perché se no l'hai fatta. Me l'ha fatta fare. E se ci vuole per lui bisogna farla ogni tanto. L'ho fatta. Dice, dove andare per via rettale? Come? Scusi? No, a me me l'ha detto, ho trovato domani, non le posso io. Però vedeva cuscio del biliardo. No, ma allora, una volta che fa la risonanza per la colonna vertebrale, che ti prende tutto, praticamente se c'hai la prostata c'è un accordo, non è? Sì, beh, certo. Vabbè, tutto negativo, soltanto, no, d'accordo, soltanto lo devo fare. Però io infatti, maestro, da quando c'è stato il zumo, l'uso che mi ha operato, agito, da quando mi avete rimesso l'ospedale. A me, guarda, sinceramente, nel mese che mi operavo stavo meglio. ho detto, ma non è che mi avessi aggiunto altri ermi? Cazzo, se sei buttato? Eia. Ha fatto da buffuarmi, il bravo di noi, vedi? Infatti io ti dicevo che da fare mettere piastre, no? Come ha fatto il tuo figlioccio? Va bene, potevi farlo già prima, e non pensavo che ci arrivava a questo, perché dopo che io ho eliminato quell'ernia, è subentrato altro. Vabbè. Che cosa vuoi fare? Già, ci vado per volentieri perché mi auguro sia l'ultima volta. E io voglio sapere, mi pare un miracolo per stare bene, yoga. Io ho toccato il cielo, dopo che mi hanno operato, sembrava, vabbè, dopo che mi hanno operato stavo un bel male, non riuscivo a stare in piedi e così, però dopo un po' di tempo sembrava di aver toccato il paradiso, senza dolori da notte, senza dolori di giorno, camminavo già tranquillo. Sì, un po' di sforzo lo facevo, adesso lo sai che le scale fa come le ho fatte correndo oggi. Prima, cazzo, quando andavo facevo fatica a salire già le viste. Gaffa. Ma ieri non lo so, forse ho sforzato troppo, non ho riposato. Io ieri notte, a casa, prima di coricarmi, ero sotto la sedia, un dolore alla gamba, dal bacino fino a tutto il piede sul pallone alla sinistra. Cosa che io non c'ero lì, mi era la retta che mi dava fastidio. Ma un dolore, un casino, manco usato. Poi mi sono coricato, poi mi è passato. Se mi sembra la sottivaggio, devo sapere. La posizione che ha assunto sicuramente. Cavolo. Vabbè. Mi è posto pensando. Cosa di tutto, sono io. No. Molte non gliene si. Cosa? Molte non gliene si. No, la volevo dare. No, niente, sto sempre pensando, io niente, non vedo qua. Io ho quella cosa, due alimentatori, 25 e 35 ampere, questo è di Sicilia, ricevitore, non vedo qua. L'altro è quello della, Oia! Questo è della Midland, quello KW505, che sono anche una piccolina, bambino, non so. E poi quell'apparato che è famoso, che non c'è il mi sa che lui è diretto su quello lì. E mi sa che glielo compra Balotello. Ah, quello che ti ho dato io è diretto. No! Ma stai scherzando già? Ui, questo è un lavoro sticchetto, un baracchino così, a me piace così il piatto. Ma io no, ne vedo anche un altro, è venuto, faccio un po'. Ah, se mi sa che ti dà, se me lo vedi mi rifiuto l'uso io, visto? C'è già per sentire, no? Cappa. Non so se lo vede quello di buco. Andate, meglio non mi mettetevi d'accordo, magari trovate un compromesso. Cappa. Non mi piace a me con il tempestivo, da quello, questo cattacolore è stato per dopo, ui. Questo uno, se uno dice me lo vede, sì, dammi 300 euro, se no non te lo do. La manopola grande, è bello, sembra una caessa. No, è bellino, la verità, a me è piaciuto molto. Ma l'ho visto un po'. Dopo, già, a me mi piace troppo. E quindi, perché a me piace mettere tutto digitale, così, preventivo, tutto nel pannello, come voglio fare il mobiletto. Non è per il momento, io penso che se tutto va bene, mi ho fatto quanto, per aprile maggio dovrei stare bene, allora me lo faccio tutte modifiche, capito? Nel frattempo acquisto poi. L'antenna ce l'ha piazzata, ui, mi abbravaglio. Prima la metto l'antenna. Va bene, l'antenna però piano. Certo, ma non sto bene, capito? Poi. Niente, intanto fretta noi, un'antenna ce l'ho ancora, quindi. Ma vorrei mettere due antenne, capito, per il sicuro. E lascio quella per il PMR. Ah, non la togli là? No, la lascio stare, due. Questa che sto usando adesso rimane per questo baracchino Galaxy. L'altra è quello che ho nuovo. Ciao ragazzi. Già, va bene, dai. Interessante uscire bene da bui. Se non bisogna tutti i luci. Dai, già va bene. Con questo qui sta scendo bene. Cos'è questo qui? Galaxy. Gamma di Galaxy. Attaccato. Ma devo staccarmi l'antenna e portarla, non lo so. teoricamente è già tutto attaccato. Aspetta, dammi qualche minuto. E se devi fare il casino, lasciami. No, un attimino, svito la pista. Perché mi... qua, ecco, già c'è qua. Aspetta, va bene, va? Cavagala. Ah, mi senti? E io. Adesso sto usando quello lì. E anche un bel riso. Però senta, la popolazione ci occupa qua. E come occupa? Non forse anche dentro il mobile. La colonia ci vorrebbe una colonia interna. Ehi, vabbè. Amica, la colonia, anche c'è il mio zio. Noi siamo andati a cercare con le potenziometri la GBC. Ogni aggasino di vita, no? Ma non si comprende più nulla. Se la posso immaginare. Qua sì, in modulazione sono da sopra e il segnale di sezione sono da sotto. A me. Ricezione. Io segno tutto di tempo. Dopo. Però adesso lo faccio rosso, dai, non piace di più di voi. Tu sei invece della massa del culo sui. C'è più giambe. Allora. Poi se cofa un bel bestiale si lo qua. Adesso privato io per la latte, dai, non c'è problema. E va bene, ma questo è il gesto originale, cavolo. Che appagata. Dai, che è stata una cosa bella bella bella. Sì, era un mio sogno. Oggi per forza la verità. Sì, comunque, sono contento, a meno che number one di radio. Sto più forte dell'altro esce questo microfono, più forte dell'altro microfono che avevo qua. A voglia già, manco paragone. Questi due apparati si sposavano già da tanto, io lo sapevo. Si sposava questo con col gas. Inizia a fare apposta, stanno molto bene insieme. Lo so, anche con la sostanza in grigio, va benissimo a te. Io tempo fa, ma tantissimi anni fa, che quello me lo vuoi tomare bene, lo sai per Milano, lo stava a Lecco, io lo fai con lo stato che l'ho venduto per me. Mi sono dato 600.000 di anni, quindi io l'ho pagato 750.000, ma io due l'ho pagato. E costava così. Me lo ricordo che tu ce l'avevi con la rotata, me lo ricordi anche bene. Tu attenti là dietro ce l'avevi, a voi già che me lo ricordo. Esatto, e già me lo rifaccio a rotata, ma non c'è problema. Se così almeno saremo per tutti sulla pantenna e diventa tutta la cosa. Vabbè già, dai, ti lascio riposare e mi riposo anch'io. Ehi, vabbè, dai. Ok, ci sentiamo Tony, dopo le lascio riposare, dopo devo uscire che devo andare a troccarmi a prendermi un po' di roba. E stamattina non ce l'ho fatta, ho dovuto fare troppe cose. Gamma. No, io alle 5 devo andare avanti, da Monica mi sta mai chiamando, mi viene a via di scappare a casa, vabbè, e poi si rompe di la casa, non sbaglio di da qui. Cara gara, e quindi la potete urmare? Beh, salvo io con lei, giustamente no, alla fine sarei con la macchina tua, perché poi devo la chiesa e se ti ritrovo la macchina tua, sei con lei. Ah, ho capito. Vabbè, stamattina la chiamatela, che da oggi sono liberi, però aspetta l'11 o il 12 a venire. Va bene, dai, già, ci sentiamo, non ti salvi. Ciao, ciao, stammi bene pure tu. Apri. Io non vado a riposare, non riposo più, mi guardo un po' il telefono, ho già riposato la prima ora. Maria dei Calippi, uomo e donna, un pochettino, che è la gente, per carità. Perché rimorchiatela voi? No, se dovessi andare io le voce di... se mi contatta io dico, davanti di quanti, non c'è da tipo che non mi è mai interessato. Ma chissà Gemma, va a 70 anni, ancora ti credi uomini, già la udi a poccottina, oh via, quanto la fa beffa, già ha fatto anche il gavettone una volta, allucinante. Allora, chi non ha fatto a pezzi, dopo un fatto pure l'ha fatto passare il danno, il gavettone, ne ha fatto un po' per cosa, è di buona figlia, quando la prendo per il culo, a me prima, ma non lo farà per fare odie, cioè ti la pagano. Oppure sì, qualche volta c'è una volta. A me piaceva quello Giorgio che era il capo tutto. E quella me la tiene a fare il culo. Ma me piacciono tutti gli uomini, a quella lì, ho visto. Chi dà un po' di retta le piace, capito? Così è. Cari dà di retta le piace. È un più che conclusione. Va bene, dai, ci sentiamo già. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao. Facendo per niente, vabbè. Nuda, nuda, vabbè, lo sai gusti. Ma io già ne ho da fare, devo controllare un computer e due telefoni. Vabbè, io sto sempre facendo, non è che non sto facendo, però bisogna anche uscire un po' fuori, perché stava sempre piovendo, e poi è un casino. Lo so. Per rubiare, là, cosa vuoi fare? Che si fa tutta una volta. È un casino. Non abbiamo chi vedi, dammi tempo di mettermi in sesto, ci sentiamo fra pe. Ehi, va bene, già sono qua, non c'è problema. Marco, ci sei? Natalino, c'è qualcuno su 10? E beh, gioventù, ci siete, sì o no? C'è qualcuno sul canale? Gianni, ci sei in ascolto? Tutti quanti a Porta Inferi sedi, bubu. C'è qualcuno su 10? Ciao Giulio. Ciao Natalì, e beh, come vai? Tutto va tu. Tutto va tu, meglio così, dai, tutto a posto? Sì signore, tutto a posto. Il giorno 4 mi hanno operato. Il 4 di sera me ne sono andato la sera prima, perché ero il primo a essere operato. E la sera mi hanno mandato via, tutto va. Allora, di 12 devo andare a farmi cavare i buchi. La medicazione già me la faccio io, ogni due o tre giorni. Ok, almeno sei tranquillo adesso, dai. Così, infatti è una cosa che voleva fatta e basta. Tanto era inutile stare lì a aspettare più in là, ma guarda più in là non aveva senso. Hai fatto e basta, te ne sei liberato, e va bene così. E non ne potevo più, Giuno. Ho passato un calvario io, guarda. Manco al peggior nemico si augura quello che ho passato io. Me lo posso immaginare, già lo credo. Capita così, non è una cosa, la salute è fondamentale nella vita della persona, ci mancherebbe altro, già lo credo, quando uno ha un disturbo è sempre troppo, anche il minimissimo disturbo è sempre troppo, guarda, perché il fisico umano ne risente, soprattutto alla lunga ne risente sempre di più, e più ti trattieni più ne risenti, invece vai deciso, tanto è inutile stare lì, ma ho paura, questo, quest'altro, e la paura, cari miei, bisogna metterla da parte, perché intanto se una cosa vuole fatta bisogna farla, non c'è niente da fare, è inutile allungare i tempi, perché intanto poi diventa sempre peggio. Sì, infatti, anzi dovevo andare prima, ma mi sono voluto rimettere dalla prima operazione, come mi sono rimesso un po', anche se ero sempre a dolori e cose. Sono andato l'altro giorno, fatto, e non mi si pensa più. Hai fatto bene, così almeno ti hai tolto un pensiero grande. Già lo credo, sì, hai fatto bene da lì. Tanto è venuto a stare lì a tentennare, e cosa esiti? È la carrozza, noi. E tu se perdi il viaggio lo perdi e basta. Invece vai, ti decidi, fai e basta. Oggi con i mesi di oggi, grazie a Dio, già ci sono molte, ma molte possibilità di mettersi a posto una persona. O meglio, che la mettono a posto, dai, i medici. Sì, infatti, poi sono bravissimi lì, dove l'ho fatto io. Già lo credo. Beh, certo. Allora, davvero, la stecca bianca o l'ospedale civile? Mamma mia, non me ne parlare, al policlinico l'ho fatto tutte e due. Allora, sono stato all'ospedale per la pancreatite, ma meglio la morte. Guarda, pensavo di non uscirne vivo da lì. Lo so, perché bisogna, anche quello, vedi, è una questione di fortuna. Bisogna trovare le persone più giuste, più adatte per certi interventi. No, anche al policlinico sono bravissimi, già lo so, sono bravi, del resto il medico non c'entra niente, se in un posto o nell'altro, quando è bravo il medico basta, è quello che conta. Va bene, va bene. Io sono già un paio di giorni, 3 giorni, 4 giorni, che mi fa male un braccio, ci picchia, saranno in artrosi, che ne so, boh, comunque. E ho la sensazione come quando uno è bruciato dal sole, mi tocco la pelle, ce l'ho così, delicata, delicata, e poi mi fa male anche il muscolo. Ma comunque, io passerà pure questo. Sì, infatti. Vabbè, giù, io ti lascio che sto per cenare, dai. Ci sentiamo alle prossime. Mi ha fatto piacere ascoltarti, grazie per la chiacchierata, alle prossime. Ok Natali, dai, buona cena allora, ci sentiamo, grazie anche a te per la chiacchierata, per essere entrata a salutare. Ciao Natali, ciao. Luce di 2 ore e poi si spegne, lo sai come si imposta? Sì, è che mamma mai fatto. Andiamo qui. No, ti giuro, non l'ho mai fatto, non l'ho. Non avendo bambini, no, non lo so. Che casino, allora, come vedere quanto tempo passi sul telefono. Allora, sì, è con te, sei rete. Sai non c'è, come aumentare la batteria di qualche cosa, gli errori si fanno, come no. Comunque sono passato tanto a Lica Mobile, 5,99€, 70 giga, minuti limitati e messaggi limitati. Oh, Lica, e cosa che c'ha lì? No, forse ho capito, tipo che sei mai niente. Lica Mobile, no, ora forse l'ho andato in via d'Italia. Sono sempre loro che ce l'hanno, questo cazzo di... Non mi ricordo adesso. Cazzo, se non faccio un postaggio con questa bambina, ora è attaccato, non ce la diavo con la mamma. Che basta con i fili a capo? Chiappa. Cavolo, pure i genitori gli devono far dare una sistemata. Cioè. Lo so. Non è che uno deve andare a fucare. Cioè sono loro che lo devono insegnare loro o glielo devono insegnare? Infatti. Salutante, ya. Si vuol dire che ne si avvede, si la chiappa. Si chiappa. Ah sei tu zocco. Ma lo senti tu pappa? No, c'ho lo squelci. Cappa. Non posso giusto se esce, se no. Cioè, ma poco fa non sentivi nessuno di Butodorra? No, non arrivano qua. Poi c'è quel rumore. Addirittura. Aspetta, va, aspetta. Se tu ti va la manta, ma dovresti ricevere più di me. Aspetta. Via. Guarda che ho mandato l'audio su WhatsApp. Ci sei altro. E allora che cacco scendi? Non lo fa sempre o qualche volta? O qualche volta c'è un rumore? Ah, stasera l'ho sentito, ogni tanto ce l'ho prima il rumore. E tu normalmente li senti a loro? Sì, qualcosina, dai. Ma io già tengo tutti già. Sì, a dove arrivo, no? Mi interessa. Prima ero più preso con questi, con queste baracchine, adesso non me la fotti qua, mi dico una balla. Ho sistemato ho cambiato lo smitter all'altro che è giù, perché era difettoso, perché abbiamo fastidio, era un bel lento, adesso è a posto, però guarda, non c'è più come una volta, dai, se ti ricordi, ho notato tuo padre, tu e gli altri, non... Non so, però... Bisogna pure di capire che cosa, perché se no siamo sempre punta a capo. Cioè, ho notato che da una parte sta crescendo, dall'altra sta diminuendo, ma è a giorni però, non è che... Infatti, proprio così. Vabbè, comunque, non è che sia questa grande cosa. La passione di prima, mi hai capito? Capa, l'unica cosa più bella che ho avuto io di avere il traguardo. Il traguardo è avere la tela sul tetto. Vabbè, hai visto, l'hai fatto, ce l'hai. No, io l'ho sempre avuto, ho avuto anche la mia 27L, ma ti parlo di 30 anni fa. Io è buona. Senti che mi ha tenuto il computer. Capa, pure quella è buona. A me già che ce l'ho sul tetto ho già un grandissimo traguardo perché posso parlare con tutti e non ho problemi. Cavolo. L'ho desiderata per anni e anni e anni, l'ho desiderata, finalmente è arrivata. Meglio così, tanto, meglio così. Cavolo, te la metti quando in scia con un roccio di cubolo, ma di no, ghiaccio. No, già qualcosa l'ha fatta, dai. Sì, quello sì, e beh. Cioè dopo già l'ha fatto. Sì. Ma con un'antenna del genere, però è tutta tanto un'altra storia, là. Infatti. Allora, ma che cacchio è la luminosità? Aspetta un attimino, vediamo un po'. Ecco. lì sullo Smitter, ma pensi non è che mi raga sei assai molto bello. Chi? Quello lì. Questo qua? Eia. No, questo sì, questo è perfetto. No, tu dici perché vuole tarato, che se ne affutti. No, è fluido, bello, va bene. Oh, ma vuol tarato, vuol. No, non me la fu più tanto, ci vuol tarato. Dopo quelli che mi dà la radio, cioè, non ho più voglia di stare lì, smontare, ma non ho più, non, cioè, non è che non ho tempo, non ho più la passione. Piano piano, hai tanto un vecchio buon apposto. E quando sarà? Ciappa. Sono con Blue Band, avessi, ma non la ciappa. E cosa? Un caricabatterie? No, caricabatterie, no, ma l'importante è per usarlo. Non lo so, non lo so proprio. Ah, ecco, qua c'è un'altra gestione, non disturbare, controllo i genitori. Non c'è un video, esiste. Ma durai? Esisto qua, allora, configurazione del controllo genitori. Supervisiona questo telefono da remoto con l'app Family Link per i genitori. Tieni d'occhio il tempo di utilizzo. Ah, ecco qua. Aspetta. E vai. Oh, ce l'ho ma non c'è, boh. Ma durai? No, boh, non l'ho mai fatto, cosa mi cambi anch'io a fare cose quando non si può fare. Non l'ho mai fatto, boh. Non lo so. Ma non so proprio perché, no, non l'abbiamo mai fatto neanche noi. Non avendo figli, no. Cosa adesso? Penso ci sia, comunque questa qua è Redmi Xiaomi blu, ah, 1, 2, 3, 4 fotocamere. Cos'è? Il 9, 9A, 9, che barazzo c'è? O l'8? Questo è un aggiuntivo, questa è una lista. Il Mi è alto, Mi 9 mi pare che sia, Mi 10. Corticchia, sei visto. E c'è ancora fotocamera, ti ho detto. Sì. E ci sono pure buoni. Sono buoni? Beh, tutti, mangiare tutti vanno bene. Non hanno problemi. Sono la versione A, è più base di tutti. Però gli altri vanno tutti bene. Capito. Non li comprare giù, non ne ho comprato mai versione A, perché no. Se no, no non ha tutto quello che deve avere. Ma io ce l'ho S10 e va la grande. Chiappa. No, io ce l'ho tutti che fa un po' di brutto. 160 giga di memoria, c'ho 6 giga di RAM. Vabbè, quello lì è più voluto, c'è anche della RDMI è più voluto così, che c'ha tutta la memoria, RAM, potente. Sì, sono ottimi come telefono, è vero. Non so, cazzo, come si imposta, no, lo so. Chiappa, ti devo cervellare un po'. Che è avanti, buonasera. Che è avanti? Ah, ciao Casanova, boh, lo so. Ah, ecco, sei entrato l'altro giorno, quello fuori strada, sì, dai. Vabbè, dai, sì, anche io sono qua al monte. Non lo senti? Zero, Lu, non lo sento. Niente, è 9, 10 qua, vabbè, qua al monte. Capo, non so se lui mi sente. Ah, ricca, ma tu sì. Ti ho riconosciuto dalla voce, Luca, insomma, hai detto. ti ho riconosciuto dalla voce, vabbè, come stai? Io l'ho vista con la macchina grossa, con l'antenna sulla capotta. Ho capito. E come mai ricavo questa cosa del baracchino? Ah, in casa ce l'hai. Ah, per quello, tanto un portatile, Giacomo, perché non lo senti. Ma chi è Riccardino? No, non è Riccardino. No, Andrew. È un altro, no, è più grande questo qua. E questo è Riccardone. Ho capito adesso. Capa, a 30 di Achinoghi non va arrivi, Non so se lui mi sente. No, ti ascolta, ma è un po' con un portatile tu. No, non riesco a sentirlo proprio. Sì, lo senti che lui ha più watt, dai. Avendo più watt, normale che lo senti. Quello va con l'antenna sopra. A parte l'antenna vai anche più watt, diciamo, non è una radio che da 4 watt, 4 watt, l'altra ne ha da 10, 20, boh. Comunque non c'è più bisogno della licenza, lo sai, sì. Ho detto che non c'è più bisogno di pagare la tassa. Cattivo, boh, 20 anni pagano di andarsi, siamo di più puro. Poi sai, Antonio non l'ha conosciuto, Antonio le Chopin. Però lo so. Ehi, bene, mi ascolti a me, sì? Lui ti sente, cioè lui, tu lo senti, ma lui a te non ti sente. È un portatile, non è che spara, Io ti ascolto perché sei vicino a me. E io sono andato sul tetto anche di qua, capito? C'è la manto qua. E dopo ti ho tirato dalla voce. Ma hai detto Casanova, cito. E tu conosci. Ma la batteria sì, l'alimentatore. Guarda. Se ti biazzi, ti metto un antennino, un veicolare e vai alla grande. Non faceva vedere. Ho capito. Non lo senti qua, ecco vicino a me con un portatile. È un amico, dai, un amico, Riccardo si chiama. Casanova, capito? È praticamente il nipote di Tony Chopin, dai. Non arrivo qua, non lo sento per niente. Ciao Cla. Lui ti ascolta comunque Cla. Vabbè, loro sono tutti con l'antenna sul tetto, Ricca, capito? Antonio, Claudio e io, ovvio no, siamo tutti con l'antenna sul tetto. Se vuoi uscire bene da casa dovresti usare un alimentatore per quel portatile, un'antenna esterna, là si riesci bene. Noi ci siamo sempre, non dico sempre, ma diciamo l'80% delle volte siamo sempre qua, dai. Ci siamo, però dico, se tu vuoi interloquire con gli altri, con Claudio, con Antonio e gli altri, devi mettere un'antenna in faccia, se no non ti sente nessuno, solo io ti sento. Vabbè, mi senti benissimo, siamo vicini, se mi apro la porta, ti chiamo, mi senti, avanti qua, minimo, ti sento che ti ascolto. Se tu ce l'hai un'antenna, io ce l'ho un piccolo, se vuoi te lo do, te lo usi, quando ne vuoi la sera entri, da te non lo sto manco usando, te lo presto, te lo usi. Vabbè, quando c'è il tempo lo attacchi e ti fai due chiacchiere con gli amici. Se hai bisogno del rosmetro buono, dai, non è di quelli super, ma è abbastanza buono. Giusto per fare la tarattura, se ti serve una mano fa un fischio. Avanti Claudio, ci sei. Ehi, sto guardando la partita, non c'è mai da dire. Che partita c'è? Atalanta-Inter. Ah, è vero, e vabbè, va su. Vabbè, non la posso guardare che non c'ho. Dove la danno? Mi piace sia su Skype, io ce l'ho sul telefonino. L'ho trasferita, non l'ho vista, se su Skype o su DAZN, comunque già c'è, già la trovi tu. Si perdi, mi sa che inizia a andare male la cosa. Non perdi, non ti preoccupare, non perdi. C'è Mina attaccato alle balle. Atalanta è una brutta gatta da pelare, cazzo, ma io preferisco più l'Inter, l'Atalanta sono un bergamaschi di merda. Ciao Cla, buonasera. Ciao Matteo, ti ho sentito poco fa sul 12. Mi stavo parlando un po' con gli amici di Porto Torres. Vabbè, io già ci parlo quando non c'è una persona, già parlo, se no no. Lo so io. Vabbè, stiamo sicuri, però. KK, dai, va bene, comunque io sono qua, non c'è problema. Ma come ti andendo la partita? Il momento è 0-0, ma l'Atalanta è forte e maledetta, ragazzi. Buoni giocatori, ma ha chiuso il campionato l'anno scorso con 72 gol, allucinante, non c'è partita che faccia 3, 4, 5, 6 gol, ma all'Inter non vi invade 6 gol, non ti preoccupare, non lo so, ma sto guardando, una bella partita, io lo sapete, sono sportivo, quindi me le guardo tutte. Domani c'è la Juventus in Champions, Juventus Porto, o dentro o fuori, si piglia un gol e fuori dalle balle Murueda. Dopo, a mezzo punto è andata la Juventus, prima era andava bene, adesso un pochettino. No, già sta andando bene, è terza da sola, va bene, meglio così, Antonio, 9 anni, vinci solo Edda, ma non lascia fa pure al latte, no? Vuol dire quest'anno il campionato è bello così, va bene. Se lo gioca il campionato va bene, ma il Champion è prima del girone. So che ha perso 2-1 di là, capito? quindi qua deve vincere 1-0, ma penso che vinca. Però non ha di biglia a gol, perché se qui la fanno un gol, anche se pareggia 1-1, passa al Porto. Capito? Come è successo all'Inter, come è successo al Napoli, come è successo a tante altre squadre. Basta che perdi di là, in casa dell'avversario, e poi devi recuperare, è un casino recuperare, capito? Perché l'Inter ha fatto una Champions favolosa, giuro che ha gattato uno squadrone, e anche se ha perso di poco, poi non è riuscita a rimontare in casa ed è uscita, pazienza. Così è la palla, le palle e la pelle di pollo. Cos'hai mangiato lo pollo? Stavolta io. Aspetta, cavolo, attimo che sto... Stanno un'occhiata al computer, aspetta, che sto salvando dei dati, aspetta. Fai, fai. Capo. Mi sembra anche giusto che ce lo vinca un'altra squadra, lo scudetto. Cioè, troppi anni la dominazione. Non è campionato quello, quando tu c'hai sempre una squadra che per 9 anni consecutivi vince il campionato anche a 3-4 giornate in anticipo, non è campionato, così è bello. Vuoi un campionato, devi lottare, perché hai 2 squadre più forti di te. Nonostante con l'Inter si siano picchiati una all'andata, una al ritorno, una l'ha vinta uno, l'ha vinta l'altro, il Milan ha perso, però intanto sono avanti, devi recuperare, se ti voglio giocare un campionato, se no ti giochi a un bagno di boi, va, così queste volte. Io mi sto guardando, questa è una bella partita, bella, bella, bella. Capo, venga il migliore, se se la vince l'Inter se la meritata e basta. Senza nulla da dire, se ce lo vince il Milan la stessa cosa, senza niente da dire, e via. Io mi avrò fatto l'Altaro, yeah! Eia, eia, eia, eia, se l'Inter lo vince quest'anno il campionato lo merita, perché nelle altre competizioni non è passata, sta puntando al campionato, è giusto che lo vinca. Deve stare attento al Milan, perché il Milan è puzzinoso. È puzzinoso. Vabbè, però c'ha già 5 punti, mi sembra, 6 punti di stacco, quindi deve cercare di tenerli. Non deve, oggi non deve perdere, se perde oggi sono cazzi suoi, Lo so. Vabbè, dai, vediamo un po'. Che vinca il migliore. È giusto che sia così. Via, bene, mi ascolti al tocco Dassi, che l'ho attaccato. Una gannonata, ma sei sopra, sei? No, no, sono giù, nella bassa valle, Non sono carbonati, dai. Cavolo. Ehi, tirami, sei rivendicato in chiwi. Ehi, ma l'antenna è a 2 metri di altezza, ti aiuto che diventa un botto di vittura, ti mando in volto. Adesso al buio, no, domani. Diventa un botto di vittura e... con un palo da 1 metro nel cemento, là. Ed è messa lì, 2-3 metri sarà, la terra barome, va sopra il tetto della casa l'antenna. Ritrattendi, sei forte qua. E i Galaxy senza niente, 10 watt, 10 watt, modulati 15, 10 watt. E ho detto che antenna si trattende. Ma quanto va? E tu hai scontato dentro una gaggiarella. Questo è un gaggiaro, cos'è? Ehi, come piantone, no, per tenerla ferma. Mica l'ho messa, ehi, ce n'è lavoro da fare. Ma non sto pensando alla radio, adesso sto pensando ad altre cose. Poi quella va staffata, messa a parete nella parte più alta della casa, è tirata su 5-6 metri, non so, vediamo. Ma immaginate già così. Cazzo, di non quando ne servono i porti, no, mi sei oltre 9.30. Siete tutti davanti a me, non ho perso niente. Ho fatto le prove stamattina con lo Sieri, come arrivavo da Carbonazzi, anzi, Santiago 5, 6, liscio, normale. A lo Sieri da qua arrivo 7. Vai, du. Nora buona. Cioè, noi siete tra un gaggiaro, immaginiamoci quando è sul tetto. Minimo qua sei oltre 9.40. Se sta già arrivando forte così, è allucinante la cosa. Tanto è da terra, da ruoto 2 metri di palo, 2 metri, 3 metri. Suga. Tanto arrivo a 9 più 20 ad Alghero, così come sono adesso, 9 più 20. Ma guarda, è una cosa allucinante, Eucla. Cioè, è una cosa allucinante. E ti posso fare una fotografia, cazzo, da succi come ti sei arrivando in occhi. E vabbè, quando ho finito poi vediamo se... Il problema è che ho... Anzi, la cosa bella è che ho recuperato il mare. Capito, la zona di Castel Sardo, adesso la vedo. Vedo tutta la punta di Castel Sardo, Isola Rossa, mentre da Carbonate non la vedevo. Arrivavo lo stesso, ma basso, i noghi micidiali. Micidiali, micidiali. Guarda Claudio, stamattina li arrivavo, 9 più 10. Fatti un conto, due. Poi adesso vabbè, dovrò montare il 430, vuoi sistemare l'antenna, mettere tutto. Tanto lo sai quanti metri di cavo c'ho? 12 metri di cavo. Tutto, stai pompando tutta l'antenna, non disperde nulla. Tutto, sta dando tutti i watt e tutto, capito? Poi con la Camille. E dai, piano piano, non me ne fotti nulla. Tu sei 9.20, con picchi quasi a 9.25. Cosa pensi? Luca lo stesso è oltre 9.20. Siete tutti, avete dei segnaloni allucinanti. Vi stavo ascoltando sul canale 12 poco fa. Antonello arriva a 9 più 10, 9 più 10, gli altri sono tra il 9 e il 9 e 5, tutti bene arrivano, tutti, dai, ia, già va bene, cambio. Antonello è il migliore che mi arriva qua, il 9 e 10. Anche oggi arriva quasi 9. Ha migliorato tantissimo. Beh, Antonello c'è una zona favolosa, è all'uscita di Porto Torres, capito, in alto, proprio nella piana, nella cantoniera dei Pidriazzi, già lo so, ci conosciamo la vita. Anche Luca arriva bene, eh? Anche Gianluca arriva a 9, appena appena più basso di Antonello, ma arriva molto bene. Arrivano tutti bene, dai, vi sento benissimo. Va bene, va bene. Cappa. Non si accorge nella base del RAL, col telefonino stai ascoltando. Una ricezione che su Rugo, che è una cosa paurosa, anche il telefonino è a bomba, Mamma mia, micidiale questa Atalanta, che sgoscia un abogado, un robottiere dell'Inter, in due tempi, madre de Dios. Zappatami l'altro negretto dell'Atalanta, da dimmi, Ecas. Arrivai Messi. Mamma mia, Lugo se ne ha tolto il portiere dell'Inter, Andanovic, in due tempi ha visto un negretto dell'Atalanta. Zapata è un Lukaku in miniatura, perché è più piccolo. Ma è una cosa allucinante, cosa effende in aria. Suga. Ma non ti date fastidio che c'è un ripetitore? Cosa, Anto? Che c'è un ripetitore, te ne dà fastidio? No, assolutamente no, no, è tutto schermato. Hai visto che tu mi hai mandato la foto del primo, quello di Canale 5, di Mediaset. L'altro, quello che c'è al basamento, in cemento armato, ed è molto più alto, quello lì è quello della Rai. Capito, lì c'è Rai 1, Rai 2, Rai 3, tutte le emittenti Rai, Rai Movie, Rai, tutta la Rai c'è lì. Sì, ho capito. Lo sai che ha dovuto girare l'antenna, che se no sfarfallava tutto. Cioè no, non ci potevano niente. Ma guarda che io non ne ho di... Non c'ho niente, c'ho il cavo attaccato alla prolunga e basta, si vede. Da Dio si vede. Bene, bene. No, non mi disturba niente. Non ho provato le V e le U perché non ne ho. Sicuramente le V e le U qualche rumore si sente. Ma la 27 no, non mi disturba per niente. Sì, lo so. Certo, in chi vedi, dici che una volta ha provato a girare l'antenna, dici che se fosse solo sfarfallata, proprio non si poteva, capo, ma è una cosa allucinante, era troppo segnale, cioè. Allora l'ha dovuta girare. Ehi, aspetta che è arrivata mia figlia, Anto, due minuti arrivo subito. Eia. Cerrado, alle 9 mi arrivi davanti. Dai, ci sentiamo un attimo, arrivo subito. Cappa. Tanto dai, ti saluto per il momento che arrivate l'aria con Mario e dai, visto che siamo qua, un attimino mi dedico a loro, ok? Non ti preoccupare, ok? Dai, vi saluto, se ci siete a più tardi, dai, ciao ciao. Ciao ciao. Ah, io chiudo perché da sono troppo ciracco. Ciao ciao. Ciao, ciao Antonio, ciao Claudio, ciao. Io vado a fare, ciao ciao. Ciao ciao Lunarie. Ciao ciao.